edizione. Pronto alla Scala di Milano per l'apertura della stagione. Mercoledì 7 dicembre il sipario della sala del Piermarini si apre sul Don Giovanni, che vedrà sul podio Daniel Barenboim. La prima sarà trasmessa in tutto il mondo, saranno 1 milione, forse 2 solo gli spettatori televisivi, e poi 114 cinema in Italia, più di 400 nel mondo che diffonderanno l'opera. Insomma, sarà davvero un evento mondiale. Allora la nostra Roberta Pellegatta ha sentito il sovrintendente del teatro alla Scala, Stefan Lissner. Poi soprattutto ci sono le televisioni in Europa, perché finalmente il Don Giovanni sarà visto da 7-8 paesi, quindi ci aspettiamo a forse 2 milioni di uditori in più, del cinema in più, no? Quindi è un Don Giovanni ovviamente con la presenza del maestro Barenboim e la presenza di Anna Netrebko, di Brinterfell, di Barbara Frittoli, di Peter Mattei, di Giuseppe Finianotti, tutto questo cast, che è un cast, Anna Proesca, è un cast eccezionale. Quindi la cosa importante dell'opera non è di avere un cantante straordinario e poi gli altri, no, è trovare l'equilibrio. E la fortuna di questa produzione è che c'è un equilibrio veramente tra tutti i cantanti di alto livello. Tra poco le prime pagine dei quotidiani. Edizione. Ed eccoci qui, ancora buona giornata. Dunque, lo sguardo ai quotidiani questa mattina comincia dalla prima pagina del Sole 24 Ore. Banche centrali, blitz anticrisi, così titola questa mattina il quotidiano. Borse in rally, Milano più 4,4% e scende anche lo spread. Anche la Cina rallenta il credito, la maxi azione di BCE, Fed e altri 4 istituti per la liquidità. Ora Pechino teme il contagio, questo il commento che trovate su il Sole 24 Ore, Sole 24 Ore che naturalmente l'attenzione la punta anche alle questioni italiane e all'attesa ormai per lunedì, quando Monti presenterà la sua ricetta. Monti stringe i tempi, agire subito o rischiamo lunedì via la manovra, così sempre il Sole 24 Ore nell'articolo firmato da Dino Pesole. Pensioni quota 100 per l'anzianità, lunedì tutta la riforma, così sul Sole 24 Ore, che prova già a cercare di spiegare come cambia il sistema di calcolo. Ovviamente tutto teorico per il momento, perché bisognerà aspettare lunedì. Il Corriere della Sera, troppi rischi, agire subito, Monti a Bruxelles, banche centrali in campo sulle borse, il Premier pareggio di bilancio nel 2013, no ai riti del passato prima delle riforme. E poi la Stampa, Monti agire ora o si rischia, anche qui le banche centrali aumentano la liquidità e le borse volano. Il Messaggero, pensioni è già battaglia, Monti lunedì la manovra. E poi la Repubblica, sacrifici o l'Italia rischia, così apre questa mattina la Repubblica. Monti lunedì le misure, ma sulle pensioni è scontro con la CGIL e la Camusso, che sulla previdenza dice quota 40 non si tocca, i dubbi anche di Bersani, d'accordo solo su alcuni punti. Il retroscena, firma di Francesco Bei questa mattina sulla Repubblica, la mannaia dei prof spaventa i leader politici. Adesso i leader della maggioranza iniziano a tremare. Le scarne notizie di cui dispongono, giacché, come ammettono, Monti non ha anticipato ancora niente, indicano che è in arrivo una vera mannaia, molto più dura del previsto. Ci sarà la riforma delle pensioni e non sarà affatto light. Ci sarà anche la patrimoniale, ci sarà il ritorno all'ICI, insomma tutto quanto. La mannaia dei prof spaventa i leader politici, così La Repubblica. Repubblica che dedica il taglio centrale alla crisi, la mossa delle banche centrali. Ma poi ci sono anche naturalmente altre notizie in evidenza questa mattina. Restiamo per il momento sulla pagina della Repubblica. Tangenti al Pirellone in cella, il numero 2 PDL. La bufera è quella in Lombardia con Nicoli Cristiani, che aveva in casa 100.000 euro in contanti. La colpa di Formigoni, il commento di Gad Lerner. E poi l'altra inchiesta di cui molto abbiamo parlato e parleremo ancora a Radio 24, il giudice che aiutava l'andrangheta a Milano, arrestato dalla Boccassini, disse al boss: dovevo fare il mafioso, la maschera caduta, scrive Roberto Saviano. La Repubblica, per concludere, la prima pagina, ancora ampio il dibattito sul suicidio assistito di Lucio Magri e le divisioni sulla libertà di scelta, il diritto di morire è un diritto. Si chiede la Repubblica. Sul Messaggero invece grande spazio questa mattina alle targhe alterne che partono a Roma. Ricordiamo, oggi stop per le dispari, la prima decisione del genere presa dalla Giunta Alemanno. Noi ne parleremo più avanti anche proprio con l'assessore alla mobilità del Comune di Roma. E poi il processo al Madoff dei Parioli, il PM ha chiesto 4 anni a Torreggiani, una vicenda che naturalmente ha grande risalto sul quotidiano della capitale. La Stampa, anche qui, tangenti rifiuti tossici, 10 manette, bufera sul PDL lombardo, anche qui la lotta all'andrangheta col blitz contro le cosche. Però ci sono altre due notizie che ci portano all'estero. L'Egitto ha scelto i fratelli musulmani, scrive la Stampa di Torino. Le urne premiano anche il partito salafita. Per la verità i risultati non sono ancora definitivi in Egitto, il conteggio delle schede elettorali procede alquanto laboriosamente e lentamente. I risultati ufficiali sono stati, è stato deciso, saranno l'annuncio slitterà di un giorno perché ci sono problemi, però fatto sta che ieri comunque i fratelli musulmani, almeno stando ai loro dati, dicono di aver vinto. E poi l'immagine sulla pagina sempre che campeggia al centro della prima pagina della Stampa di questa mattina ci porta invece a Londra, dove ieri c'è stato uno sciopero contro la riforma delle pensioni, uno sciopero degli statali. Gli statali bloccano l'Inghilterra, così titola la Stampa, il più grande sciopero dal 1972, ma non spaventa Cameron, che parla di un petardo bagnato. Sulla centropagina sempre del Corriere della Sera, anche qui l'attenzione è puntata alle proteste negli altri paesi europei, a Londra appunto per la riforma delle pensioni e welfare, il più grande sciopero dagli anni 70, il titolo anche per il Corriere della Sera. Corriere della Sera, dal quale vi leggiamo anche un'altra notizia a fondo pagina: predoni dell'arte impuniti per legge. Un decreto che va cambiato impedisce di mettere in galera i tombaroli. La firma è quella di Gian Antonio Stella. Italia, saccheggio del paradiso dell'arte. Il nuovo ministro dei beni culturali Lorenzo Ornaghi, scrive Gian Antonio Stella, si stampa in testa questo titolo del Mundo e cambi finalmente subito una legge infame, quella che consente di arrestare un pensionato che ruba scatolette di tonno al supermercato, ma non il trafficante che ha in mano il cratere di Ofronio o altri pezzi da milioni di euro. Così sulla prima pagina del Corriere della Sera. Solo uno sguardo, come sempre, ai nostri quotidiani, perché poi con Alessandro Milan alle 7.20, la più ampia rassegna stampa di Radio 24, però restiamo anche noi a dare uno sguardo invece ai quotidiani stranieri. Questa mattina uno sguardo vale la pena darlo al Wall Street Journal, che titola, come abbiamo sentito anche molti quotidiani italiani, sulle borse che volano per l'intervento delle banche centrali. L'azione coordinata è stata innescata, scrive il Wall Street Journal, da settimane di turbolenze dei mercati e facilitato da diversi anni di antincendio congiunto di importanti banchieri centrali del mondo. Come dire, le banche centrali ormai si sono abituate ad agire congiuntamente. Ma c'è anche un'altra notizia curiosa questa mattina sullo Wall Street Journal. L'Unione Europea sta preparando restrizioni alla vendita di carni provenienti da animali clonati, scrive il Wall Street Journal, aprendo un altro fronte nella battaglia sull'ingegneria alimentare, prendendosela con l'Argentina, dove gli agricoltori sempre più clonano maiali, bovini e ovini. Così scrive questa mattina il Wall Street Journal. parliamo anche d'altro. Allora, andiamo negli Stati Uniti con Cristina Carpinelli. Dicevamo questa mattina, si sta muovendo il popolo di Occupy Wall Street. Fischietti e tamburi, slogan forti e nessun tipo di violenza. Così gli indignati newyorkesi hanno sfilato per la città, giungendo poco fa nel centro di Manhattan, per manifestare davanti ad un albergo dove il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha preso parte ad un evento per la raccolta di fondi in favore della sua rielezione alla Casa Bianca. Erano oltre un centinaio gli attivisti. Nessun tipo di violenza o scontro fisico è stato registrato a Los Angeles, dove la polizia, a partire dalla mezzanotte, ha iniziato a smantellare le tende degli attivisti. A Londra ieri gli indignati sono scesi in piazza. Con loro c'erano migliaia di persone che hanno aderito allo sciopero degli statali. Si è trattato del più grande sciopero dal 1979 ad oggi, chiuse scuole e uffici pubblici. Dicevano no ai tagli alle pensioni decisi da Cameron, portavano striscioni di protesta e si mescolavano, i quasi pensionati, ai ragazzi, ai loro tamburi e ai loro fischietti. Questo dunque è quello che sta succedendo proprio in queste ore negli Stati Uniti, ce l'ha raccontato Cristina Carpinelli. Le 6:26:30, abbiamo ancora 30 secondi per dare uno sguardo alla Gazzetta dello Sport. Lippi esclusivo questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, Juve indizi scudetto, Marchisio super, mi rivedo in Conte, così l'intervista a Lippi questa mattina sulla Gazzetta dello Sport. Chiudiamo così questa prima parte di prima edizione e tra pochissimo riepiloghiamo le notizie di oggi. Prima edizione. Le inchieste di Radio 24. Italia in controluce. E il primo giorno di dicembre vi parla Daniele Biacchissi. Quanto costa alla comunità un parlamentare? Come è composta la sua busta paga? Il primo di una lunga serie di reportage di Radio 24 sui costi della politica, oggi firmato da Alessandra Schepisi. Io sono Acoso, ho lavorato 35 anni e prendo molto meno e sono un ex dirigente di quello che prenderanno dopo una legislatura questi signori qui. Una montagna di quadrini che io me lo sogno. Super pensioni! Ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate. C'è gente che non fa niente, che non fanno parte di commissioni, stanno lì, passano da una cosa all'altra con una facilità. Onorevole Eccellenza, Cavaliere Senatore, nobiltà. Lei ha idea di quanto guadagnano al mese? Sui 20.000 euro lordi, se non ricordo male. Immunità parlamentare. Visto che fanno? Fate qua, fate l'oro e macchina blu. Speriamo. E macchina verde. Auto blu, sangue blu. Auto blu, treni, aerei, autostrade gratis, tessere del teatro, del cinema e dello stadio, dentista, massaggi, balneoterapia e ancora ristoranti a prezzi stracciati, assicurazioni sanitarie per tutti i familiari. E la ciliegina sulla torta, un bel vitalizio che l'onorevole si aggiudica anche dopo aver occupato lo scranno per una sola legislatura. Cronaca degli sprechi e dei privilegi dei nostri parlamentari. Solo demagogia? Cosa c'è di vero e cosa c'è di falso? Lo andiamo a scoprire con i nostri deputati. Antonio Mazzocchi, deputato del PDL alla sua quinta legislatura, avvocato nonché questore della Camera, cioè colui che si occupa del bilancio interno di Montecitorio. L'indennità del deputato al netto sono 4.400 euro. Su questo si basa il famoso vitalizio e poi diventerà pensione. Scusi, al netto prende 4.500? No, io al netto prendo 9.000, 10.000, 11.000 euro. Non è quello, è che però in questi soldi io devo pagare l'assistente parlamentare, devo pagare lo studio parlamentare, devo pagare le varie attività telefoniche. Sì, faccio esempio, e in Francia. E quanto spende per tutte le attività collegate alla sua funzione? Ma io le posso dire forse perché io faccio anche politica un po' più attiva nel partito. Poi il partito ci chiede giustamente anche un tot al mese. Come quanto date al mese? Noi al mese al partito diamo 1.000 euro e siamo quelli che forse danno di meno, gli altri danno molto di più. Tutti i deputati del PDL danno 1.000 euro? 1.000 euro al mese diamo. Quindi lei, scusi, in media quanto le rimane poi al mese? A me rimane rimane dalle 3.500 alle 4.000 euro se mi rimangono. Per tutte le sue... Sì, ma tenga presente che un deputato c'ha anche una famiglia. Necessità private, come dire, sì. Sì, sì, un deputato c'ha anche una famiglia poi. 11-12.000 euro lordi, dunque, quelli che arrivano a fine mese nella busta paga di un onorevole. Scalando le spese, al deputato Mazzocchi rimangono circa 4.000 euro, però al netto dei vari benefit e senza pensare che molti deputati hanno anche il doppio lavoro. In Rai Italia incontro luce, torniamo oggi 13.30 a Radio 24. Grazie come sempre a Daniele Biacchessi. Prima edizione, 6.36 minuti, ancora buona giornata da Anna Migliorati. Voltiamo decisamente pagina perché andiamo all'estero. La Gran Bretagna, lo saprete, ha deciso ieri di chiudere l'ambasciata a Teheran. La rottura delle relazioni segue l'assalto all'ambasciata britannica perché, secondo Londra, è stata condotta da giovani miliziani legati al regime come rappresaglia per le sanzioni britanniche contro il programma nucleare. Anche l'Italia sta valutando cosa fare. Oggi si riuniranno i ministri degli esteri europei. Allora cerchiamo di capire che succede e cominciamo dalla posizione italiana. Sentiamo il ministro degli esteri Giulio Terzi al microfono di Elisabetta Fiorito. Ho già dato disposizione di convocare l'ambasciatore iraniano per chiedere spiegazioni e chiedere naturalmente garanzie su quello che le autorità iraniane prevedono per il futuro della sicurezza del corpo diplomatico a Teheran. Non è concepibile che un paese che ha dimostrato di saper controllare movimenti di ordine pubblico 2 anni fa, ai momenti delle manifestazioni di piazza, venga sorpreso da un evento di questo tipo. Approfondiremo con gli altri partners europei la linea da seguire e intendiamo riflettere rapidamente sui seguiti per quanto riguarda la presenza del nostro ambasciatore e dei nostri diplomatici. Come funziona dunque in questi casi? Io saluto Antonio Badini, ex ambasciatore italiano in Egitto, già direttore del Affari Medio Oriente al Ministero degli Esteri, ora inviato speciale di Idolo, che è un'importante associazione internazionale. Ambasciatore Badini, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Ambasciatore che tra l'altro è al Cairo, tra poco parleremo anche di Egitto, però partiamo invece dalla questione iraniana. Sentiva il ministro Terzi, è questa la procedura in questi casi? Beh, certamente un atto serio quello che è stato compiuto dall'Iran, ma occorre anche dire che la tensione viveva da qualche tempo una grande tensione. La regione è già sconvolta da fatti a tutti noti. Ricordiamo che lo stesso Bahrain ha avuto delle sommosse prevalentemente dalla popolazione sciita, che è quella che risponde all'Iran, e dunque problemi che la stessa Arabia Saudita aveva sperimentato nelle sue coste orientali, anch'essa abitate da sciiti e dove si produce una grande quantità di petrolio. Dunque la regione era già sotto pressione, la Siria, ricordiamoci, è sotto pressione perché la Francia intende aprire un corridoio umanitario, anche pronta all'uso militare qualora la Siria non collaborasse. In questa situazione parlare di ulteriori sanzioni era per l'Iran un modo di essere un po' aggredita. Khamenei l'ha letto varie volte. Quindi diciamo quel che è cambiato in queste ultime ore è questo timore di nuove sanzioni. Esatto. All'assalto dell'altro giorno all'ambasciata britannica, cosa c'è dietro? C'è dietro il regime una sorta di guerra sottobanco dei servizi segreti? È questa l'ipotesi allora più probabile? Ma certo, noi abbiamo già visto in passato che l'Iran è attraversata da correnti di opinione diverse, ci sono i radicali, gli intransigenti, quelli più moderati. Noi sappiamo che diciamo c'è una diversità, una differenziazione che però di fronte a momenti di grave tensione esterna serrano i ranghi, e dunque ogni volta che l'Iran si sente giustamente o erroneamente attaccata, fa prevalere l'interesse nazionale ad una ferrea difesa piuttosto che lasciare spazio a un dialogo interno che esiste. Forse in passato l'Occidente ha sbagliato a usare toni sempre duri, sempre minacciosi. L'Iran, la sappiamo, basta vedere la storia. L'Iran di fronte a un tentativo che sostiene, serio, di aggredirlo, di metterlo all'angolo, fa valere tutte le sue risorse. Guardi che quello che è successo con l'ambasciata britannica succede in altra parte del mondo. Gli sciiti è un credo dell'Islam che è molto fedele all'Iran. Basta vedere quello che succede in Libano. La lunga mano dell'Iran, insomma, che arriva anche in altri paesi. Assolutamente, assolutamente. Dunque, ecco, una regione in subbuglio, bisogna stare molto attenti. Certamente questi atti gravi dell'Iran non possono passare inosservati, ma bisogna stare attenti a riprendere tutte le fila di un discorso che è stato esasperato, diciamo la verità, da una parte e dall'altra. Sì, ma soprattutto dalla minaccia improvvisa di Israele di usare l'arma militare per colpire e distruggere l'installazione. È stato questo che nel momento già di grande tensione ha esasperato gli animi e ha creato nuove preoccupazioni. Ecco, a creare nuove preoccupazioni all'Occidente, lei tra l'altro anche al Cairo, in queste ore un po' anche l'Egitto, si attendono i risultati di queste elezioni che si dice stanno andando a rilento, quindi arriveranno più tardi rispetto a quanto si pensava, però i fratelli musulmani sembrano, almeno dicono già di aver prevalso. Qui infatti, la situazione come potrebbe evolversi invece? Ma io direi che sicuramente, come già è successo in Tunisia e in Marocco, i fratelli musulmani avranno una quota maggioritaria, saranno largamente rappresentati nel prossimo Parlamento, ma bisogna stare attenti che a destra, diciamo, piuttosto c'è un salafismo che sta crescendo a dismisura. Il nostro problema oggi non è se un partito islamista acquista una maggioranza relativa, perché non sarà mai una maggioranza assoluta del nuovo Parlamento. Bisogna stare attenti che sono i salafisti che hanno come programma dei regimi completamente guidati dalla Sharia, sono quelli, i salafisti, che sono la preoccupazione. Dunque, l'Egitto potrebbe diventare un paese islamico e quindi, anziché alleato all'Occidente come è stato fino all'altro giorno, invece un problema? No, assolutamente no. Su questo rassicuriamo, insomma. Assolutamente, i fratelli musulmani hanno già detto ai più alti livelli che innanzitutto loro non stimano, non si attendono di avere la maggioranza assoluta e quindi vogliono soltanto avere una posizione influente nella prossima guida del governo. Ma attenzione, i fratelli musulmani hanno già detto che sono coscienti delle difficoltà nell'Egitto. Queste difficoltà prevedono un governo che non cambi posizioni su alcuni aspetti. La privatizzazione, per esempio, rimane un obiettivo economico fondamentale per i fratelli musulmani. Ovviamente saranno molto più attenti a contenere gli eccessi del mercato, cioè salari eccessivamente bassi, oppure situazioni di iniquità tra una regione e un'altra, tra un settore e un'altra. Insomma, quei problemi che abbiamo conosciuto anche noi in Italia, no? di sperequazioni territoriali e settoriali. Però attenzione che gli investimenti non avranno nessun problema, forse saranno anche meglio trattati, perché oggi cos'è che in Egitto dà preoccupazione? L'incertezza del diritto, nel senso che e quindi c'è in certo senso il fatto che si concluda un processo comunque dovrebbe mettere un punto fermo. Sono perfettamente d'accordo. Grazie ad Antonio Badini, ex ambasciatore italiano in Egitto, per essere stato con noi questa mattina. Grazie, buona giornata. Prima edizione. Le 6:47 minuti, parlavamo poco fa dei rapporti tra Islam e Occidente, allora vi raccontiamo anche una storia questa mattina che ci riguarda direttamente. Una studentessa islamica che frequenta l'Università Bicocca di Milano ha chiesto uno spazio per poter pregare. L'università pensa a una soluzione, ma nel frattempo ad aiutare Melek, questo è il nome della ragazza turca, è stata la professoressa Chiara Volpato. Allora sentiamola in questa intervista di Katia Caramelli. La studentessa è venuta da me in quanto coordinatrice della laurea magistrale che la studentessa sta frequentando e mi ha chiesto se c'era uno spazio in Bicocca in cui poter pregare. L'ho fatto presente alle autorità della Bicocca, ho chiesto eccetera. Siccome, come è comprensibile, la risposta non poteva essere immediata, è passato un po' di tempo eccetera, ad un certo punto, quando la studentessa è tornata a chiedermi e ho capito che per lei era veramente una cosa importante, le ho detto: beh, nel frattempo, finché troviamo una soluzione più seria, insomma, che possa valere anche per altre persone, può venire nel mio studio quando io non ci sono perché sto facendo lezione. Adesso la cosa comincia a essere raccolta, diciamo, in qualche modo, e l'idea che io avevo fatto presente, che a me pare un'idea che poteva andare bene, era di uno spazio che potesse, senza simboli religiosi, che potesse essere usato da chiunque, cioè da credenti di religioni diverse e anche, perché no, da non credenti, che possano aver bisogno di un momento di silenzio, di raccoglimento, di preghiera. Cresce il numero di studenti che hanno questo tipo di esigenza? Sì. Noi abbiamo appena concluso una ricerca, che abbiamo pubblicato un libro sui giovani immigrati, sui quelli che abbiamo chiamato i nuovi cittadini, e sono tanti quelli che abitano nel nostro paese, che sono nati nel nostro paese e che non si sentono riconosciuti pienamente perché non hanno la cittadinanza italiana e non si sentono riconosciuti anche in questo, nella loro appartenenza religiosa. Io credo che questo sia il futuro e, guardi, sono rimasta molto colpita da due cose. La prima, facendo questo lavoro per il libro, abbiamo raccolto molte interviste di ragazzi, appunto, o arrivati in Italia molto piccoli o nati in Italia, ed esprimono una grande sofferenza rispetto a questo, rispetto al non riconoscimento di quello che sono. E l'altra cosa che mi ha colpito molto sono state tutte queste mail che ho ricevuto da quando lunedì il giornale turco ha pubblicato questa intervista con la studentessa che diceva che ero venuta incontro alla sua richiesta, insomma. E sì, mi hanno proprio commosso, perché mi sono arrivate una trentina, anche un po' di più, di mail in cui dicono: ho letto sul giornale questa cosa e la ringrazio per la sensibilità. E grazie per l'intervista a Katia Caramelli, grazie anche a Viola Bottoni in redazione, Peter Bescapè in regia. Noi ci risentiamo tra pochissimo, ci sono le notizie di GR24, nel frattempo ancora una buona giornata da Anna Migliorati.